Buonasera Stefano e buonasera anche Marco. Avanti Marco. Ciao, già ho acceso, o meglio sono tornato adesso a casa e ho acceso, ho sentito te e pochi istanti dopo ho detto, come mai non entrano più Marco e Stefano? Invece siamo tutti qua già. Avanti Stefano, buonasera a tutti. Salve Aureliano, non dire le bugie. Buonasera a tutti. No, io ho acceso adesso la dritta, no, senza dire né questo né quello. Ho acceso in questo istante, K. Avanti Gianfranco con la buonasera a tutti nuovamente. Sì, buonasera Marco, buonasera. Ciao, no, sono chiamata di Gianni. Dai, li ho chiamati io. Ho fatto due nomi, sono usciti, te le immagini, sì, Salabino. Come sta uscendo questa radio? Questa misera radio. Bene, Ste. Questo è quello grande a colori che hai visto in foto. Azzarola. Ah, quello lo vorrei vedere illuminato io. Sarà bellissimo vederlo così. È bello, indubbiamente. Adesso sto vedendo l'analizzatore di spettro, l'unico sporco è Marco. Se lo sporcaccione, guarda, c'è un gas di banda in modulazione spaventosa. Oh, eppure non sono molto. C'è solo un po' amplificato con la batteria scarica, K. Ehi, già, comunque io stavo ascoltando ma in PMR, poi sono andato in macchina perché mi sono dimenticato di non aver messo il gancio blocca volante, blocca sterzo, capito? Sono tornato, ho acceso 27 e c'era qualcuno, dai. Ah, stai andando lì, stai andando in PMR? No, stavo ascoltando solo, oggi non sono entrato niente in PMR. Solo stamattina ho salutato Gio Maria, che ero a Piazza dei Segni, c'erano le bancarelle anche oggi perché domeniche prenatalizie, le ultime domeniche lo fanno anche domenica al mercatino, capito? Sì, lo so. Eia, ce n'è la roba bella. Oh, mamma lo sa, io non sono nemmeno sceso dalla macchina. Mi sono attaccato la radiolina e c'era Gio Maria, mi hanno scambiato le parole e poi ha chiuso. KK, avanti Stefano. Sì, sei sempre sporco, ma è emissione, diciamo qua, a questa misera radio, Gianfra, sto usando il 756 Pro 2. Io sono come sul sandwich, perché questo è arrivato, si è dimenticato il programma. Va bene? Sì, aspetta, sì, se puoi su qualcosa è meglio perché la voce tua è già bassa, credo di natura. No, se riesci a tirare su ancora appena è meglio. Sì, aspetta che devo passare un po' la radio, non c'è male, vediamo un po'. È alzato un po', però è questo, sì. Esce male, è vero? Adesso è alzato, ma esce male. Sì, si porta dietro anche il QRM. No, si sono messi in banda laterale a rompere le scarpe. Ma dove? Qui? E allora? Io non sento nulla. No, io sì. Spero che si porti appresso lui, non lo so. No, non credo, boh. No, io qua non rilevo niente, questa radio è sicura, nel senso che dice le bugie, non penso che neanche la tua le dice le bugie, però io non sento nessuno mandate l'altro. Boh, io l'ho sentito di nuovo mentre parlavi, figurati, probabilmente sono vicino a casa. È troppo bassa già fra quella radio. Sì, perché per sentire te devo sollevare il volume, altrimenti non sento niente. Sì, anche da me è così, ma lo usa molto basso Gianfranco, anche perché lui di natura ha la voce molto tranquilla, molto pacifica, e quindi è bassa. Se la alzasse un attimino in più andrebbe meglio. Marco. Cosa mi racconti di bello? Cosa sei andata a comprare? No, io niente, mamma era andata a cambiare un paio di pantaloni e invece non c'era il bancarellaio. Poi poi c'erano negozi aperti fino all'una, tipo MD o come si chiama ora, Lidl secondo me, edicole aperte anche, sempre la mattina solo, poi all'una hanno cominciato a chiudere i negozi, tipo alimentari, capito? E in arrivo un altro maledetto Natale, verità. No, sei mai contento, ma è quasi al massimo, avevo fatto l'altro. Hai ragione, non è mai contento. Ehi, d'altronde non c'è niente da festeggiare, almeno da parte nostra, anzi, di sì, mamma ha avuto far l'albero, ancora non è pronto, in fase di lavorazione, ma alla fine sono solo feste per spendere e basta, alla fine della nascita di Cristo non gliene frega nessuno, mi. Che persona disperata, mamma mia. Ascoltati un po' di canzoni di Agini, dai, così almeno ti tiri un po' l'allegria. E stanno com'è? È aumentato un pochino questa storia, perché non so se è al massimo. Sì, confermo, un pochino aumentato, meglio di prima. Sarà anche dalla radio, se non lo so, perché stati piccoli, ecco, è aumentato un pochino anche dalla radio. La cassa è vero che si muovono parecchio, però sì, ora ha aumentato discretamente, sì, penso che un pelino meno, ma proprio un pelino, è proprio niente, va meglio, anche se appena appena ti porti un po' di QRM che è dietro di te, ma o della stanza, ma appena appena non dà fastidio. Il problema è che la modulazione sia presente, altrimenti bisogna stare sempre con il volume, quando parli tu bisogna sollevare, quando parli quell'altro bisogna abbassare, insomma è un po' fastidioso. Gianni, l'hai sentita l'emissione di Stefano? Sì, c'è sotto roba. Sì, è sotto roba che ve lo sto dicendo. Io, cosa c'ho sotto? Senti una specie di... Tipo scarichette sembrano mi, ma non so se sono scariche. La portante è muta. Sì, tipo quando c'è il disco graffiato, ce l'ha presente? Controlla il PL, non c'è qualche cosa in mezzo staccato. No, perfetto, aspetta che ricordo. Lo stesso rumore di quando un disco è graffiato. Eccolo, fa ancora? No, adesso... Era pure cordatura. Ora. Facendo piccolo. Era come quando un disco di vinile graffiato, faceva lo stesso rumore. Esatto, troppo ne sai già. Già nel DJ. Gianni il caldo, ho abbassato la microfonia e forse va un pochino meglio adesso. Ciao, tira Gianni il caldo. Senta, cioè, sono delle schiattellamenti in potenza, un po' sale, un po' scende, niente radio. Quando lo sentite voi questo splatter in banda laterale, io lo sento un bel. Dovrebbe essere, sono o frequenza di AC, qua c'è anche un vicino che magari è quello che mi sta disturbando, non lo so, però sento come se fosse in banda laterale. Adesso sono andato in banda laterale, non benissimo, Sarà qualche armonica, battimento, non lo so. Magari dai 10 metri, mico. E non le bida di golf, sono qua. È perfetto. È perfetto. io non li sento. Niente, è un po' libero. Vabbè, dai. Cappa, comunque sono sicurissimo che ci sono, non sto dicendo fesseria. No, ma sicuramente li senti, magari... Propagazione magari no, non so se è propagazione, ma... Lo so già, anche sul 3 alfa, non lo so, prova, se c'è qualche missione, qualcuno che si diverte, cosa ne so io? Io, beh, c'è problema. KK e quindi Marco ci si è andato a gironzolare. Ma niente di che, poi siamo al freddo in casa, eh. Lo gibro è finito, abbiamo dimenticato di ordinare la bombola sabato e siamo al freddo e al gelo. Qui avrei voluto la comodità del riscaldamento come c'è lì tu, con la caldaia, o col gas quantomeno, dai, col gas di città. Lo stesso che c'ho io, per fare adesso, per aggiornarlo, il riscaldamento, perché ci sono delle modifiche da fare. Abbiamo dato già 240 euro per venire solo a vedere l'ingegnere, a vedere com'era l'impianto, quanti elementi aveva, eccetera, eccetera. Solo per fare quella verifica 240 euro. E adesso alla riunione hanno detto che dobbiamo pagare 2500 euro a testa per mettere, diciamo, a norma l'impianto, e abbiamo bocciato tutto. Quando mai devi pagare 2500 euro? Non le recupererai mai. Io ho detto, piuttosto me ne sto con la stufetta elettrica, ma non me ne frega niente, io non ne pago di queste 2500 euro. Tu sei manco a testa, vedi? Caspita, non è che uno c'ha 2500 euro in tasca da buttare così, no? E che tipo di modifiche bisogna fare già? Voi avete la caldaia, giusto? O il gas? Abbiamo la caldaia giù, praticamente è a gasolio. Abbiamo il pozzo dove si mette il gasolio, eccetera, eccetera. Praticamente adesso ci sono delle specie di... abbiamo una centralina in casa, tra l'altro la centralina mia del termosifone è dietro la stufa, la cucina componibile. E dovrei smontare la cucina per farvi accedere alla centralina. Dalla centralina non so cosa devono fare, perché tocca, devo lavorare anche lì. Poi in ogni termosifone metteranno uno strumento che misura la temperatura, non so cosa cavolo deve misurare. E niente, non so manco esattamente per che cosa serva, perché la riunione non ci sono andato, ho dato la delega a un condomino, perché purtroppo, non so se l'hai saputo, mia sorella ha avuto un problema, è ricoverata allo stroke unit all'ospedale, ha avuto un trombo, è stata male, quindi io sono per quello che non sono entrato in questi giorni. Ah, per quello già. Io pensavo che ti fossi già scocciato, visto che in 27 non c'era nessuno, ha detto magari si vuol vendere tutto. Poi c'era per quello, dai, una cosa più seria. Certo, ho preferito andare via all'ospedale piuttosto che stare in frequenza. Ho preferito perché ero anche un po' preoccupato, anche perché non apriva manco gli occhi, fatti il conto. Oh, ma il trombo dove l'è venuto? Cervello, trovo al cervello da una parte e dall'altra, ma bene o male, diciamo, un po' si è risolto in due giorni, anche perché è giovane, quindi ha cominciato a parlare, ha aperto gli occhi, ragiona tranquillamente, si muove, non è un po' debole, questo lo dice che è molto stanca, però sta meglio. Ehi, vabbè, il cervello è una cosa più seria, ma i medici come lo sciolgono il trombo? Hanno dei farmaci, dei trattamenti, niente, sai? Sì, sì, gli danno una terapia per scioglierlo, però ci sono le persone che riescono a superare, le persone che non ce la fanno. Lo so, dipende dalla gravità del trombo, da dove è colpito. Mamma mia, carità, ma capogiri ha avuto anche, no? No, mal di testa, allora mal di testa stavo andando all'ospedale perché avevo questo mal di testa già da due giorni, forte e cose. E la figlia gli ha telefonato a casa, gli ha detto ma cosa stai facendo? Dice, guarda, ero sdraiata perché mi sento debole. E poi c'ho questo mal di testa fortissimo, E allora lei si è preoccupata, è andata a casa e ha detto che si è accorta che non stava bene dal fatto che aveva visto la macchina che era parcheggiata sullo stop, che mia sorella è proprio regolare, non fa mai queste cose. Probabilmente si è sentita male, l'ha parcheggiata dove gli è capitato, capito? Da lì si è resa conto, poi l'ha portata all'ospedale, l'ha fatta controllare, l'ha scritto ricoverato. Eia, meno male che hanno provveduto in fretta, dai. Va bene, fai girare, dai già. Per esempio Gianfranco, riprendi, dai. Sì, niente. No, non so, sapere se adesso andava bene la radio, tutto lì, così la lascio così, non la tocco più. Ma io qua ti ascolto abbastanza bene, non ho particolari problemi, dai. Ti ascolto bene. Stefano? Sì, sono rientrato. Sì, per me va benissimo, lasciala così e no. E non facciamo più nessun'altra regolazione perché va bene. Ok, bene così allora. E comunque confermo, i disturbi sono giustificati da parte di Gianni, è normale che ci siano. Attività in 10 metri? Sì, quindi qualcosa, se non c'è un apparato robusto, le arriva. Capito già, la diamatore in 10 metri. E deve essere anche il mio vicino di casa. E chi è il più vicino a te? Beh, non mi ricordo manco il nome. E quello non me lo ricordo manco io, sei da un po' che non entra qua. Eia, ma poi si era risolta quella storia dell'armonica sui 10 metri, no? Non la sapevi, no? No, no, no, no, lui ha detto che hanno esagerato, capito? E lui ha detto solo che mi sentivo e basta, non che niente di, del resto. Eia, va bene, dai. Ho abbassato un po' il microfono, perché è inutile alzarlo, perché tanto qua poi c'è il limitatore del baracchino, trimmer è a metà, non è tutto aperto, questo è omologato, quindi è inutile alzare perché poi non fa pasticcio e basta. Poi se volete metto anche l'originale microfono, il palmare normale, che è ancora più limpido. Vedo che avete sonno anche voi, mi sa. Qua mi sono scaldato, mi parlando al baracchino mi sono scaldato. Ho spostato il baracchino, prima era a sinistra del divano, cioè a destra del divano. Adesso lì bisogna maneggiare con l'albero del Natale, quindi l'ho portato dalla parte opposta del divano, a sinistra. Ho messo, vabbè, per il BMR ho messo una prolunga di RG58 di 5 metri. 5 metri soli, capito? Cioè, ho messo il barilotto, come hai portato da te. E quindi una prolunghetta, dai, se no è un macello. Ma non perde col barilotto, non perde segno. Sì, un po' sì, ma non mi interessa, non mi interessa. Anche se non mi sentono, pazienza. Un po' perde, poi in UHF. Ma chi è questa sovrabbondumando? No, sono io, sto schiacciando la portante leggermente per vedere se le SVR. Ma non c'è l'accoppiatore automatico, come fa? Sì, sì, però nel meter, diciamo, c'è, è diverso, capito? In che senso diverso? Non segna meglio? No, nel meter è multifunzione, puoi mettere SVR, power, LC, insomma, adesso prima era su power, adesso l'ho messo su LC. Ah, vabbè, mi piacciono tutti separati, sempre per sicurezza, per avere sotto più tutto. Comunque Gianni, sì, c'è ragione, c'è una legge, è stata in vigore questa cosa, per cui bisogna spendere un po' di soldi perché hai i termosifoni per mettere i regolatori, che poi praticamente diciamo una frequenza, una temperatura tarata e niente, cioè volevano solo i termosifoni, una bella tarata, ma lo fanno soprattutto per gli anziani, perché siccome ce ne sono troppi e hanno pensioni troppo basse, quindi le hanno detto le mettiamo anche questo, così non la scendono per niente e muoiono e risparmiamo la pensione, capito già? Si possono mettere massimo 21 gradi o 20 gradi, adesso non mi ricordo. La recalorie che si possono usare sono quelle lì. Noi l'abbiamo bocciata perché non ne vale la candela, non riuscirai mai a recuperare quei soldi, quei termosifoni. Ma a me non mi metto una stufetta elettrica, me ne frega assai, spendere 2500 euro a testa, ma stiamo scherzando, tutti l'hanno bocciata la riunione. Ma sono quelle cose fatte apposta, perché sono certi che nessuno ci ha i soldi, quindi così, per l'altra parte, capita. Come si dice in Sardo, in Sassarese, se non muori di lampi, muori di droni, e quindi se vanno sempre sul sicuro. Avanti Marco. Eia. Una volta mi ricordo che da Gianni c'era abbastanza caldo, almeno io che sono abituato a stare senza stufa, o quantomeno a usarla poco, da Gianni c'era caldo. Per esempio in casa di un ex amico, molto ex, c'era molto caldo con questi termosifoni, loro avevano i termosifoni, c'era caldo, cioè loro stavano magari o in maglietta o in camicia, appunto, io siccome arrivavo da fuori, magari in moto, che avevo la maglia della salute, la camicia felpata, eccetera, eccetera, c'era da morire, guarda. Pure io soffro più il caldo che il freddo, cioè quando sento caldo proprio mi toglie l'aria, mi dà l'impressione di non respirare. E quindi, infatti dicevo, ma chi ha, ho detto, il gasolio, la caldaia, no, non si può regolare la potenza del calore. Io per esempio mi ricordo che a scuola c'erano termosifoni, si poteva regolare. Era una valvola manopolina sul termosifone che Bidelli avevano svitato, no? Io mi ero portato una chiavetta, mi pare, da 6 mm e quando c'avevo troppo caldo mi abbassavo la temperatura. Capito? E poi si lamentavano le compagne di scuola, perché loro volevano stare in magliettina, in canottiera, capito? In classe volevano stare. Io che arrivavo in moto avevo lo stesso maglia della salute, eccetera. Ho detto, ma scusate, io sto morendo, no, fra poco svengo, mettetevi qualcosa voi, mettetevi una cosa in più voi, ma io non lo tollero così questo caldo. E vabbè, dai. Oh, Gianni, in realtà non è il caldo, è che lui non ne poteva sapere nulla, è perché veramente non le piacevano scoperte le ragazze, un po' talebano il tipo. Allora, la stessa cosa stavo pensando io, dopo ho pensato fosse un malizioso. Ma chiama le ragazze, bambine erano, non ce n'erano degne di notta, diciamo. Capito? Loro stavano con una maglietta scollata e io dovevo crepare il caldo perché arrivavo in moto, bardato da... Invece adesso ho imparato a vestirmi a buccia. Tipo solo una maglietta normale sotto, poi una camicia felpata, poi posso mettere un giubbotto, insomma, adesso è tutta buccia, in base al clima mi levo il giubbotto, mi levo la camicia felpata e poi qualcos'altro mi inventerò, capito? Per esempio da Auchan certe volte per inverno c'era un caldo, ma un caldo, e vedevo gente, che io praticamente in camicia stavo morendo e questi avevano la giacca addosso, cioè erano vestiti completamente con tanto di giacca chiusa. Ho detto, ma come fanno? O non sudano questi o non lo so cosa c'hanno. Quello è il mio male, io non sudo, per quello ingrasso. Oh, ma così è. Vabbè, io sudo poco, non è che, però il calore mi crepa proprio, non... di questi riscaldamenti forzati proprio mi disturba, sento l'aria pesante, va bene. Insomma, a scuola io facevo il lonfio, siccome avevano tolto proprio il rubinetto, avevano svitato la manopola per evitare il toccare, io portavo la chiave da sì, tac, chiudevo, mettevo a metà, a un quarto, me lo regolavo come piaceva a me. Poi quando se ne sono accorti gli altri, e adesso lo dico al preside, io ho detto, vai a dirlo al preside, io non ho toccato niente, dimostrami che ho toccato qualcosa, che io non facevo di nascosto, capito? Riprendi Stefano. Ehi, ragazzicello, eravate, cioè pistini pizzoni. Ma quando mai ti devi mettere la manometra anche per mossi fuori, Marco? Sei proprio un delinquente. Guarda, una volta l'ha detto anche l'insegnante, dice c'è un forno qua, non si può stare qua, aprite le finestre, fate entrare un po' d'aria perché è una cosa terribile. Non hanno il senso della misura, capito? Infatti, come hai detto, 20-21 gradi, credo, vanno anche bene, cioè temperatura tipo primaverile, ma quando comincia ad avere 25 gradi, 28, quello è un forno, non è un riscaldamento quello. E vabbè, io la vedo così, dai. Adesso sono senza stufa, pure mi sono scaldato parlando alla radio, vedi? Serve anche come riscaldamento il baracchino. Se passi a casa te la prestivo la stufa di Ibis. Non c'erano maschietti adatti. E allora? Marco, se passi a casa te la do io la stufa di Ibis. No, già, in realtà ne abbiamo una moltitudine di stufette elettriche, però io non la uso più. Perché cioè te la devi attaccare alle gambe per sentirla, è solo direzionale, scalda poco l'aria. Scalda poco l'aria, non... se ti sposti di un metro è freddo di nuovo. Infatti non le ho più usate, mamma sta per comprando stufette elettriche, cosa ne compri? Non le uso io, non le uso. Infatti è meglio la stufa, lo Zibro che scalda l'aria, capito? Scalda proprio l'aria. Vabbè. Sì, infatti ce l'ho ma non emetto. Mi disturba, capito? Consuma un bel e rende poco, ecco cosa c'ha. Magari la stufa a gas o la Zibro consuma il giusto, però scalda l'aria, ecco già, capito? Lo so. Ormai sono oltrepassate quelle a gas. Adesso ci sono quelle a pellet che scaldano bene. Non paghi molto il pellet, paghi una cazzata. E gli scaldi come si deve, anche troppo. Guarda, io oggi ero all'ospedale e c'era un caldo, lo stesso che si moriva. Non si può stare. Poi le accendono, ci sono quei termosifoni in ghisa, quelli scaldano bene. Tipo quelli degli ospedali, non si respira. Sì, pure gli infermieri stanno vestiti sottilissimi, no? Sottilissimi, i pazienti, vabbè, c'hanno un pigiamino, più o meno grosso, dipende. Però io mi ricordo che le poche volte sono stato in ospedale, era sempre c'era sempre caldo, già. Capito, anche quando mamma si era fatta male, cadendo, c'era sempre caldo. Per carità. Che? No. Cosa ti volevo dire? Ah, già, sì, il pellet è buono per chi ha la canna fumaria, scalda anche troppo, hai detto. E poi le ultime, le più moderne, sono quelle a bioetanolo, che mi pare che da Bricomen nemmeno ce le hanno, perché ho guardato, erano tutte a pellet, a bioetanolo non ne avevano ancora. È un alcol, bioalcol, vedi, la fiamma, eccetera. Molto pulito, dice, che non inquina, non dovrebbe, insomma, se no non sarebbe bio. Ecco, stanno inventando tutti i colori. E poi c'è quello che brucia tutto, con le caldaie che bruciano tutto, come si chiama, nocciolino e tutte queste cose qua. Salsa, li puoi mettere qualsiasi cosa te la brucia, legna normale, di tutto. Puoi mettersi qualsiasi cosa, tu ti metti gli elementi in casa e la caldaia la lasci fuori, devi avere una casa in campagna per fare queste cose. Ci butti di tutto e brucia tutto quella lì. E scalda, ti scalda l'acqua dello scaldabagno, ti scalda l'appartamento, ti scalda tutto. Oh, molti combustibili, è così. Come si chiamano? La tecnologia come si chiama? Non lo so, io ce l'aveva un amico ed era veramente, dice che risparmiava un bel, ci buttava legna di tutti i tipi, salsa, nocciolino, pellet, ci puoi buttare di tutto. Naturalmente hai bisogno sempre di canna fumaria, sì. E questo non te lo so dire, lo sai, non lo so. Però io ho visto che aveva fatto una casettina dove aveva messo questa caldaia che era separata dalla casa. Sì, beh, se no i fumi dove vanno, poi bruciando anche olio, quella roba lì. Eia. poi per il pellet bisogna stare attenti anche a che pellet metti. Ci sono certi pellet che sono resinosi, che ti sporcano di colla, sì, ti impiastricciano tutto il bruciatore lì. Invece certi pellet sono migliori, quelli bianchi bianchi tipo abete, mi. Poi dipende anche dalle marche. Certi invece sono, a me non piace il pellet scuro, certo è scuro scuro, sembra roba di scarto, non lo so. A me più bianco è più mi piace, io non ce l'ho, ma insomma hanno detto di stare attenti appunto in base al pellet che metti, perché ti sporca la stufa, te la incrosta proprio, È migliore il faggio. Ci sentiamo dopo. Ehi, Gianfra. Il faggio. Ehi, Gianfra. Il faggio hai detto, meglio dell'abete? L'abete è resinoso. Ah, proprio l'abete è resinoso. Allora mi sono sbagliato io. Ok, faggio. Non credo il pino fosse più resinoso. Poi non so se pino ne usino, no? Però sì, di solito quelli di... Ce ne sono certi proprio di marca super che da noi non trovi nemmeno. È bianco bianco, è bello chiaro chiaro, ed è proprio di roba super fine, dicono, costa anche un bel. E quindi l'abete resinoso, da adesso so una cosa in più. Invece da Auchan c'è il pellet appeso. E quando vai in drogheria ti danno le cose con quella palettina, no? Lo metti in busta, lo pesi e lo paghi la cassa. Capito già. Perché ho detto, ma se uno per esperimenti gli serve un mucchietto di pellet, cosa si deve comprare? Il sacco da 20 kg? Non è giusto. O da 10 che sia. E vabbè. Ci sono i sacchi che li si rompono, li mettono in vendita sfusi. Perché non ne ho mai visto a pellet sfuso? Pellet sfuso. Per la prima cosa che sento. Avanti, sento. E appunto, no, vorrei capire che tipo di esperimenti fa uno col pellet, o Marco. Eia. Allora, siccome sto sempre a trafficare, sono interessato a questi fornelli, fornellini e fornelletti, fornelletto a gas, se dovesse servire, ce l'ho. Poi esistono fornelletti ad alcol, proprio ad alcol. Riesci a cucinare quello che vuoi, sai, quando manca il gas, quando vai fuori a fare scampagnate. Poi ci sono fornelletti che vanno con combustibile solido, chiama Examine, anche un altro nome, lo fa anche la Ferrino, però un altro nome lì. C'è un fornelletto di metallo proprio molto spartano, intanto che rega la pentola, metti questa pastiglia di combustibile, le dai fuoco, non è diavolina, ma è simile, tipo diavolina. E poi cuocere. Poi ci sono questi fornelletti che vanno a legna, rametti vari, insomma vanno proprio a legna, sono piccoli, sono alti, saranno 20 cm, larghi 10-15, e hanno una struttura tutta bucata, no? Praticamente tira l'aria dal basso, la vendono i cinesi. Puoi mettere sia legna, che però brucia in modo più scordinato, se metti pellet ha una fiamma veramente, veramente di lusso. Porta all'ebollizione l'acqua in pochissimi minuti, tipo un minuto, però è una cosa allucinante. Fa una fiammatona, devi vedere, e quelli col pellet è particolarmente efficiente, diciamo, quel tipo di fornelletto, capito? Usare sempre all'aria aperta, certo, non in casa. Ho capito, però tipo campeggio, dai. Sì, tipo campeggio. È carino, ho visto vari video su YouTube, è molto carino, dai. E costano dai cinesi poco, 15 euro così. Sono fatti i vari componenti, no? Praticamente il pellet rimane quasi a mezz'aria, cioè c'è uno spazio sotto, è tutto bucato ai lati, poi anche il bruciatore è forato e praticamente tira aria dai lati, da sotto, e fa una fiamma particolarmente... Ha proprio dei forellini laterali, sembrano i cosi del fornello, i forellini del fornello, vedi una fiamma particolarmente efficace. E col pellet, soprattutto se è un pellet buono, brucia molto molto bene. Quindi volevo ordinare quel fornelletto della Cina e poi fare le prove col pellet quando si va fuori. Sempre facendo esperimenti, io che l'ho pulito a casa. Comunque sì, ho già. magari sono sacchi rotti, sacchi che si sono aperti, però Shannon ce l'ha, l'ho visto, infatti è la prima volta che vedo il pellet sfuso. Di solito in continente lo usavano sfuso per chi lo voleva, e adesso ha sparcato anche da Ocean, che siano sacchi rotti e riciclati oppure pellet così presa apposta per la cosa al dettaglio, ce l'hanno, ce l'hanno. E meda, bene meda. E meglio, ma cosa fai con una busta di pellet? Ti prendi una busta della spesa, qua ci sono dei contenitori grandi. Guarda, la verità, non ho guardato che busti ne sono, ma tu ne metti quando vuoi 100 grammi, 200 grammi, un chilo, scegli quanto ne... bisogna vedere quanto è grande la bustina, ecco. Poi si pesa, c'è la bilancia e esce lo scontrino, no? Come l'ortofrutta, tu già. E se no io per fare una fesseria di prova, usarmelo due volte, mi devo comprare il sacco da 20 kg, ma non saranno. Sì, ma dove la accendi, Marco? Più che in campagna non lo puoi fare questo lavoro, lo vuoi fare in casa? No, no, no, in campagna, non in casa già, assolutamente. Adesso speriamo che mi venga la voglia di uscire in primavera e sfruttare un po' di roba, ha capito? Yeah. Vabbè, tutti preferiscono quello a gas perché è più pulito, non puzza di bruciato. Però sai che i normali fogliettini a gas, se vai in altura, no, non è il mio caso, ma se vai già a 1000 metri più comincia a non funzionare. Fornelletto a gas normale, ci vogliono dei fornelletti particolari per altura, sono proprio particolari, capito? Ma non è il mio caso, quello sono gli escursionisti che fanno alpinismo, a me non mi interessa quello. E qual è il motivo? Oh, perché il gas del fornelletto va bene a diciamo un'altitudine a livello del mare, perché salendo c'è meno ossigeno oppure la pressione è minore e comincia ad andare in ebollizione il gas, una cosa del genere. Motivi fisici comunque, dai, che non conosco bene, l'avevano spiegato chi fa attività alpinistica, la roba lì, l'aveva spiegato ma non me ne ricordo. Mi allontano un secondo e devo andare in bagno, dai, riprendi ste. Sì, penso che sia, ma penso, la questione è che in grandi altitudini l'aria è più rarefatta e per cui la miscela aria ossigeno, gas ossigeno è minore, per cui è minore il potere di combustione. Sì, però credo sia anche roba di pressione. Perché salendo hai meno pressione, è come quando buchi la bomboletta del gas, no? Quelle da fornelletti, che comincia a ribollire, no? Perché gli manca la pressione della bomboletta che lo contiene, comincia a ribollire, insomma. Sì, ci sono i modelli che ho visto, che proprio il fornelletto è una cosa ridotta ai minimi termini, no? Proprio il bruciatore. Poi c'è un tubo che si collega a una bombola particolare di gas. Chiedere quale, ma sono miscele strane, insomma, fatte apposta per l'altitudine. Sì, sì, mi pare che da qualche parte le ho viste in vendita, non, certo non qui in un sito, stavo frugando una volta, sono delle cose per trekking, camping e ad altre cose, per sopravvivenza, ecco, stavo cercando una cosa e ce le ho viste proprio lì. Eia, sì, anche io l'ho visto lì, negozi che vendono cose di sopravvivenza, campeggio, dall'aria aperta, hanno tante cose carine. Anche il fornelletto ad alcol è carino, carino, ci puoi mettere o l'alcol rosa denaturato, anche se fa un odore un po' brutto perché è denaturato, oppure ci metti etanolo, proprio quello per fare i liquori, solo che quello costa un bel, capito? Quello denaturato ti costa un euro, un litro, insomma, uno si tappa il naso e usa quello, capito? Poi è carino anche quello col combustibile solido, che poi lo davano anche nelle razioni K del servizio militare, non so se mai avuto di vederle, la razione K, no, che c'è tutta la roba da mangiare, tirano questo fornellino con la compressa combustibile. Sì, ce l'ho ancora io. C'è ancora quella compressa, no, ma il fornellino non ce l'ho, e più ho anche l'attrezzo per aprire le scatole, originale. Eia, tu cos'eri stato, esercito, marina o aviazione? Esercito, ero Marco Mer, razione K, bah, non lo dirà a me, guarda, non posso raccontartelo, ma ne ho da vendere proprio. Allora, pare che le razioni K rispetto a una volta siano migliorate parecchio, hanno arricchito i menù, hanno migliorato proprio la, diciamo, la, il menù, soprattutto i primi, è molto più varia rispetto a prima, K. Insomma, per tutti i gusti ce n'è, capito? Tipo pasta alla siciliana, la, adesso non ti so fare esempi, però l'hanno arricchito parecchio, dai, diciamo. Poi mi stavo interessando per curiosità di queste razioni, si chiamano Notrationen, Notrationen in tedesco. Praticamente è il cibo di sopravvivenza che serve solo in casi di eccezionale emergenza, catastrofi naturali, cioè proprio quando non è da mangiare. E sono delle tavolette di, che contengono molto energetiche, che contengono tipo grano cotto, vitamine, sali minerali, eccetera, eccetera. Sono quelle che usano nelle missioni umanitarie, tipo UNICEF, capito? Si può mangiare o così oppure mischiare con acqua o latte e ti dà una sostanza, una pappetta quasi mangiabile, perciò ti permette di sopravvivere, capito? Sì, ho capito. Non ero a conoscenza, ma penso, sì, ho capito di cosa si tratta, capito. Sì, attualmente quella è l'ultima spiaggia proprio, perché di roba, se uno vuol far scorte, non lo so, sei fissati di sopravvivenza, io non sono a quel livello, ma catastrofi naturali, guerre, no, ci sono le normali, i normali cibi, no, che poi durano anche parecchi anni, no, quindi si usano quelli. Però poi ci sono queste tavolette, si chiama NRG5, c'è scritto NRG5, quelli sono proprio l'ultima spiaggia dell'alimentazione, quando sei ai ferri corti, in poche parole, ecco. Oh, sì, infatti non sapevo che c'era qualcosa, però non sapevo esattamente come stai dicendo tu tutta la storia. Beh, buono sapersi. E via. Poi, vabbè, ho visto anche cibi conservabili, sempre per, che ne so, li prende la protezione civile al limite, seppure li prende. Certi durano anche 25 anni, lo sai, roba confezionata che dura 25 anni. Non so cosa ci mettano dentro per durare tanto, però uno dopo 20 anni l'apre, 25 ed è ancora mangiabile, capito? In realtà dura anche molto oltre, ma all'anima, dopo cosa mangi? Roba mummificata. Sì, beh, devono fare così a lunga scadenza perché così penso che un motivo ci sia, no? Ehia, però vedi, gli americani sanno arrangiare bene in caso cose future, conflitti, comete, meteoriti, guerre mondiali, sanno organizzare meglio anche a livello di protezione civile. Qua in Italia siamo in mano a tipo Bertolaso, cioè qua altro che cibo, qua ti fanno morire di fame, cioè siamo messi male. Se succedesse qualcosa di catastrofico in Italia, vedi che casino. Altro che Stati Uniti d'America, ciu. Ma siamo a perdere, non tocchiamo quei tasti che mi viene nervoso, guarda. Guarda, una nazione sprecata, una nazione sprecata. Come giustamente mi hanno fatto osservare, io dicevo che piuttosto che fare entrare soubrette e sciampiste, al governo ci voleva gente che aveva minimo una laurea in scienze politiche, no? E giustamente mi hanno risposto, eppure tu hai visto i crani di allora, no? Dalla Costituzione in poi, non sono riusciti a fare niente. Tutta quell'impastamento di gente. Erano politici di professione, non hanno combinato una mazza, nemmeno loro, capito? Quindi non è questione di lauree politiche. Non ho combinato niente, mai niente nessuno. Da che mondo è mondo, mai niente nessuno. ha sempre peggiorato. Vabbè, sarà che noi abbiamo avuto 40 anni più di DC, Democrazia Cristiana, in Italia. Magna magna, magna tu che magno io. Invece, che ne so, la Germania mi sembra più cazzuta, la Francia lo stesso, ma l'Italia è diventata proprio una barzelletta in tutto, scuola, sanità, con i soldi remoti questi disgraziati vivono per decenni in case provvisorie, in case prefabbricate, che sono mura di cartongesso, ma non esiste, dai. Non esiste, c'è gente che dai terremoti che sono successi 30-40 anni fa sono nati nelle case, in quelle case di fortuna, sono sposati in quelle case di fortuna, hanno avuto figli in quelle case di fortuna e tuttora sono morti anche lì, tuttora nessuno ha fatto mai niente, quindi credetemi, meraviglia. Sì, esatto, dice ricostruiremo, lo stesso l'Aquila farà quella fine sicuramente, Amatrice pure, non ricostruiscono, capito, dicono non abbiamo soldi, finito il problema, capito, non abbiamo soldi, risolto il problema. Per carità, guarda. Poi hai ragione, Fabrizio Mascherato si è incazzato per come è ridotta l'Italia adesso. Poi vabbè, ho seguito un ragazzo in rete che anche lui è destroide, che parla della, praticamente con tutti questi immigrati che si installeranno qua a 100-200 anni sarà una specie di termine, non te lo so, una depersonalizzazione, diciamo, proprio di un'identità italiana, perdono l'identità storica anche, cioè quando arriva tutta l'Africa qui, già non sanno la storia dell'Africa, poi qua vengono in Italia, si fanno famiglie, non sapranno manco come è nata l'Italia, niente proprio, capito? Sarà una perdita di identità storica, così dice lui, le parole sue, poi più o meno già si capisce, dai. Sì, sì, infatti così. La razza si mischierà la razza italiana e nascerà un'altra, capito? Meticcia. Veglia, si meticcia. Gianni, fatto hai la pupù o la pipì? Tutto va, tu appo. Eia, stavamo parlando di roba. L'Italia è la barzelletta d'Europa, siamo a Grecia e forse anche Spagna, forse, ma già in Spagna sono messi meglio, mi sa. Ma se te adesso accorgo lo faremo, o state solo commentando? E così, insomma, sempre rivangando le mancanze dell'Italia, che fa tutto schifo ormai, che la sanità è una burletta, che la scuola è una burletta, fanno portare i gessetti da casa, roba del genere, come la scuola di mamma, una vergogna, a portare la carta igienica per i bagni, proprio una vergogna. E poi vabbè, adesso ho preso il filo, dai già. Invece la Germania ha preso batosta in due guerre mondiali, si è risollevata da due guerre mondiali ed è sempre più cazzuta dell'Italia, non c'è niente da fare, è proprio la classe politica che fa la differenza lì, Oste. Conosco bene la realtà tedesca, guarda, conosco perfettamente ed è così, no, sono forti. Poi magari dal di dentro vedi problemi maggiori, però insomma, ogni tanto ci arrocciano, l'Europa ci arroccia, ci sgrida che non va bene questo, non va bene quello, siamo quasi tipo Grecia. Alla Grecia gli togli il feta, quel formaggio cagato che fa la Grecia, e il turismo e va in crisi, non altro la Grecia, capito? Mi pare non ha aziende automobilistiche, non ha niente, cioè la Ferrari chi ce l'ha? Noi. Stilisti, i maggiori stilisti mondiali sono italiani. La Grecia cos'ha? Cioè, a parte il turismo, il turismo è di fetta, quel formaggio lì, quella schifezza, di cosa campa la Grecia? Un paese proprio, è stata una gloria nel passato, prima di Cristo, ma adesso è diventato un paesino a livello dell'Italia. Da. E vabbè Marco, non è che vive del formaggio che dici tu, capito? Ce ne ha altre risorse, però non bastano per il fabbisogno della popolazione di greca, così è. Vabbè, io parlo da osservatore esterno naturalmente, cioè che la Grecia vive molto dal turismo, dire, ma insomma non so quale cos'altro può avere la Grecia, ma non so nemmeno se abbia una casa automobilistica nazionale, come può essere la Fiat nostra, mi pare non ne hanno nemmeno, o niente del genere. No, la Grecia non ha fabbriche automobilistiche sue, non ha un marchio suo, però vive e campa da altre risorse. Tu vuoi dire come che i sardi vivono dalle pecore, la stessa cosa, capito? Però non è così, ci sono altre risorse. Anche noi, turismo e formaggio, oi, no vabbè, ma io parlo da italiano, non parlo da sardo, io vabbè, non sono molto filo sardo, dai, insomma. Vabbè, però diciamo che la Grecia, essendo un paese, una nazione mediterranea, ha le stesse cose che abbiamo noi, olio, pastorizia, agricoltura, cioè le stesse cose identiche uguali a noi, essendo il clima mediterraneo, coltivano e fanno le stesse cose nostre. Diciamo che è come una grande Sardegna, dai. Magari più sfortunata, che ne so, per altri livelli, però è molto similare. Ehi, insomma Gianni, chi in passato era grande, la Spagna era padrona di mezzo mondo, è diventata un paese di puzzinosi. L'Italia ai tempi dei Romani erano grandi, avevano tutta Europa, adesso siamo un paese di puzzinosi. La Grecia lo stesso, l'Egitto lo stesso, faraoni, cosa adesso sono dei mangiatori di datteri, e cosa vuoi di più? Purtroppo le cose cambiano, cambiano un po' per tutti, sia privatamente che nella nazione, ma speriamo che ci sia un miglioramento, perché tanto parlarne secondo me vale poco, ci possiamo lamentare, però chi comanda non siamo noi, e quindi è sempre il governo che porta avanti certe cose. Diciamo che noi possiamo fare qualcosa, nel senso di farci sentire, ecco. Tanto parlare tra noi non si riesce a trovarne o arrivare a un capo della cosa. E l'unica cosa sarebbe fare rivoluzioni e queste cose qua, perché non è possibile che siamo fino a una catastrofe così. Purtroppo le rivoluzioni andavano di moda più nel metà 800, fino a 800, adesso non fanno neanche più quelle. L'italiano è, basta che abbia lo stipendio, l'italiano se lo vuoi fare imbecillire gli devi levare lo stipendio o la pensione. Vabbè, i pensionati sono già anziani, gli togli lo stipendio, vedi se si incazza. Se no l'italiano non muove un dito, capito? Non se ne frega, amico. Vai in certi paesi, tipo in Arabia, roba del genere. Quando è andata mia sorella a fare un viaggio, in albergo gli hanno detto praticamente di non uscire il giorno. E lei voleva sapere il perché. E non gliel'hanno detto, gli ha detto che è meglio che non uscivano. Beh, fatto sta che si è affacciata la finestra dell'albergo, che ha visto sassaiole tirando certi massi di pietra, di coso, uno contro l'altro, per l'aumento del pane. Si stavano ribellando per l'aumento del pane e dice che tiravano sassate, tutte le vetrine, tutto qua, spaccavano tutto. Ma dove è questo? Adesso non mi ricordo se era Tunisia o Arabia o dove era, perché mia sorella fa molti viaggi, quindi me l'aveva raccontato, però non mi ricordo dove era esattamente. Ehi, invece vabbè, adesso parliamo di cosa. Mio cugino che lavorava a Dubai, invece, è dovuto andare, lo sai, perché stava con questa storia della protestavano contro i cristiani, mi, c'erano strani fenomeni, insomma, tirava brutt'aria a Dubai, lo sai, e se ne sono dovuti andare lui e la moglie, perché i gruppi disagitati, no, che ce l'avano con i cristiani, insomma, tirava brutt'aria per i cristiani. Allora se n'è andato, e al momento la moglie dovrebbe essere a Macau, insomma zona Cina, e lui è andato a lavorare in Irlanda, aspetta, mio cugino sta diventando una specie di giramondo, cosa che aveva fatto, in Germania, Polonia, poi Germania, poi dove cavolo era andato, Londra, quindi Inghilterra, poi Dubai, poi Macau, poi adesso l'Irlanda, insomma. Però ho detto a mia zia che mette radici per Luca, cioè non è che deve fare il nome, ha detto, a vita, deve scegliere dove stare, mettere le radici, comprarsi casa, cioè, se no così davvero è fare la vita da nomadi. E vabbè, ma è più spensierato. Così sta lontano dalla moglie e non gli rompe le palle. La moglie è filippina, mi lo sai, si è presa la moglie filippina, cioè lui italiano, lei filippina e parlano in inglese, anche questa cozzaglia di lingue, di razze, boh, sarà, e va bene, ne ha avute tante ragazze, ma si è sposata una filippina, così. E deve essere andata d'accordo con quella, si è fermato con quella lì. Ma forse se l'ha presa a Filippina, perché ho visto uno da una parte e uno dall'altra, quindi non c'hanno problemi. Non sono tutte le donne che accettano certe cose. Poi una cosa non mi è chiara, Gianni. Se lui ha lavorato qualche anno in Germania, qualche anno in Polonia, qualche anno in India, da quelli Dubai, cioè la pensione lui la prenderà mai? O come funziona? Sì, che la prende. Oh, e come lo rintracciano per mandargli la pensione? Cioè, poi, per, siccome ha lavorato in tanti paesi, lui cosa deve fare? Comunicare la residenza o roba del genere? No, non deve comunicare niente. Io stesso ho lavorato all'estero, ho fatto l'immigrante, e quando sarà che loro controlleranno tutto, che in base all'età loro sanno che lui c'ha 8 anni, che sono 35 anni, e sanno che è ancora una euro di pensione, capito? Ma al di là del fatto che abbia lavorato un mese, 6 mesi, 5 mesi, un anno, 2, loro sanno che lui è automatico, non ha raggiunto ancora l'età pensionabile. Una volta che raggiunge l'età pensionabile gli arriveranno a casa i contributi, cioè quello che lui ha lavorato, e niente, gli arriverà la pensione dal paese dove lui è stato. Ah, ma Dubai non lo so se abbiano il sistema pensionistico, e lì sono tutti ricchi sfondati, boh, vabbè, si vedrà. Vabbè, si vedrà, lo vedrà lui. Eia, eia. E il bello è che ha visto posti, ha viaggiato, insomma, ha visto un sacco di posti belli, e quello è una cosa buona. Solo che le cose non gli sono andate tanto bene, perché lui in Polonia aveva una gelateria, per esempio. Poi siccome i soci erano sempre in ferie, lui non poteva andare mai in ferie, per dire, hanno fatto il peccato e lui se n'è uscito dal gruppo, capito? Cioè quando chiedeva di far ferie lui, però qua, là, insomma, alla fine doveva lavorare sempre gli altri in ferie, no? Non va bene. E ha mollato il gruppo, dai, sennò quella era ottima come cosa. Gelateria artigianale. E vabbè. No, ma tuttora è un ottimo investimento, una gelateria regionale, io parlo a livello europeo, è un buon investimento, perché se tu vai nei canali, insomma ci sono dei canali dove cercano il personale, le gelaterie tedesche, in Germania e quelle italiane specialmente, sono quelle che cercano più personale, sono, ogni giorno cercano, guarda, di personale. Eia, lui era, mi pare, a Baden-Baden, un nome del genere, Baden-Baden, una cosa del genere, era vicino alla Polonia, non so se proprio al confine, ma in prossimità, credo. No, Baden-Baden non è vicino alla Polonia. No, allora non è quella, non è quella. E poi questi nomi tedeschi li confondo. Eia, solo che questa lontananza, cioè, lei è rimasta a Macao per problemi di immigrazione, di documentazione, è già mesi che sono così. Cioè, che matrimonio è un matrimonio a distanza? Non lo capisco. Uno che lavora a destra, l'altro a mano, dall'altra parte del mondo, cioè, boh, non lo so, io non lo farei così. Vabbè, o tu non la faresti, quelle sono scelte di vita che uno fa, alla fine dei conti. E poi se la vedranno loro, magari, che ne sai? Eia, boh. Vabbè, comunque ha fatto bene andarsene da qua. E gli avevo detto, Luca, vattene più lontano possibile da questo posto, sia per la situazione familiare. E gli ho detto, stai qua, fai la fine mia, capito? Cosa lavori qua? E vabbè. Sai, il padre era alcolizzato, quindi... E proprio era un fantasma, è come se non avesse padre, come se fosse orfano di padre. Completamente assente. Poi eravamo sciagurato il padre, diciamo. Quindi, ho detto io, vattene più lontano possibile da questo posto. Così ha fatto, dai, diciamo, ha avuto la forza di volontà. Già è bello, non si perde d'animo lui, dai, non ha paura di viaggiare anche. Va bene, io approfitto del mic per fare QRT, mi stanno chiamando e poi mando gente. Vi saluto cordialmente. Ma chi ce l'ascolta non so, Gianfranco se ha chiuso e c'è ancora, Gianni e Marco, per me è corretti, ciao, riprendo. Dai, dai, riprendo io, dai, aspetti, saluto. Buona continuazione di serata, grazie per il PSO. Alla prossima, avanti Marco. Ehi, ciao Stefano, dai, buon corretti e ci sentiamo in altre occasioni, dai, cercherò di entrare nel 27. E devo fare un po' l'uno un po' l'altro con questa mania del PMR, boh. Non credevo che ti lagasse a tal punto, Gianni. E comunque sì, la colpa è mia di Pomponio. Ognuno fa quel che crede. Io non c'entro, non me la fotti nuda. Io se c'è gente qua, entro qua. E boh. Andare. E allora... Perché non hai seguito le sue orme? Di mio cugino, vabbè, lui a parte che stava fisicamente era perfetto, io già non mi sento mai bene, c'ho la schiena, posso fare sforzi, è un casino, già non, già da tempo non, poi non sono tipo che viaggia, ho il terrore di viaggiare, io non so, di staccarmi dal patrio suolo, da casa, capito? Forse devo abituarmi da piccolo a viaggiare. Da giovane, molto giovane. Tu sei il tipico terrore. Il tipico bamboccione. Ti piace stare sotto l'ala della chiuccia. Eia. E poi insomma, io di salute non sono mai stato. Sono stato un po' cagionevole, un po' questa cosa. Schiena, cosa, insomma, non. Sono un po'. Non è un granché come sto io già. Non mi ci fa pensare, dai. E Marco, c'è chi sta peggio di te. Uia, io sto lavorando col piede che mi fa male, mi brucia. Non riesco manco a camminare, zoppicando. Sto lavorando, capito? Ma tu sei, hai ripreso a lavorare, no? Sì, ho ripreso. Ma quando? È settimana? Da venerdì sono rientrato. Eia. L'importante è che non si riapra già, che non si riapra. Perché quando tu fai peso sul piede per sollevare roba, cassa di merce, boh, vedi tu, insomma, dovrei sforzare di più l'altra gamba, in poche parole. Eia, lo so. Marco, dai, chiamami al telefono che devo dirti cosa. Ah, ok, va bene, ti chiamo fra pochi istanti. Attento, Condor.